All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ma ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Yeah! Un'altra grande settimana assieme, gustiamocela con questa nuova puntata della cena dei regini che arriva a 30 puntate, un grande traguardo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, ciao, che si chiamano Luca, Francesca e basta. Ci vediamo tra poco dopo un piccolo spazio musicale. There's a church on the corner of the street in my town, where the blind lead the blind to salvation. They surrender their wills and their $10 bills to the sky. And it's one nation under God, indivisible, with liberty and justice for some. And the melting pot's only got soup if you follow the one. And they'll fill your bowl if you sell your soul. And the spirit world is floating by, and you will live, and you will die, and no one knows exactly why the spirit world still fighting. Oh. Palestine lives in confusion while Israel burns in the night, and they all want the same, just a place they can claim as their home. Of peace, and it spread through the land, but then died by the hands of a few. Now any brown man is feared as a killer, and he's got no idea why. He's just making a living and taking and giving and doing the best that he can. There's a church on the corner of the street in my town, where the blind meet the blind to salvation. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Ragazzi, passiamo all'angolo delle notizie dal Laos. Laos, che sta occupando gran parte delle mie giornate, è motivo anche per cui gli episodi della cena sono in grande ritardo, però ragazzi, ci siamo quasi, ormai mancano il mobilio, alcune cose, secondo me sta avendo parecchio bellina. Stasera faremo una spedizione così di perlustrazione del posto per vedere a che punto è, però io sono molto molto propenso che presto riaprirà. Tanti stanno scrivendo per partecipare, comunque invito ancora artisti e gruppi musicali che vogliono venire a fare esposizioni e concerti a contattarmi tramite il bac.it per metterci d'accordo e organizzare qualcosa di sicuramente molto molto bello. Ragazzi, in questo mese riapriamo, speriamo, quindi Laus e cibo che esce dall'ovunque Continuiamo anche l'esperimento di gioco di ruolo da tavolo, le serate di gioco a cui tutti possono partecipare. Altra cosa, ultimo invito, partecipate alla cena dei Regini. Se avete qualcosa da raccontare, la vostra esperienza di vita, la vostra esperienza artistica da portare qui, e qui è la tavola ideale, è il programma radiofonico Regino a cui dovete fare riferimento. Cena@bacca.it per commentare questa puntata e per venirci a trovare. E adesso ancora un piccolo spazio musicale. E ragazzi, la cena dei Regini, bentornati nell'angolo delle notizie alla strada, cena@bac.it per contattarci, www.bac.it per trovare tutte le informazioni sulle attività e sul programma, ma adesso notizie dalla strada, notizie più importanti, più succulente, raccolte e commentate da noi alla tavola della cena dei Regini. Purtroppo la prima notizia è un commiato il colonnello Miao è morto. No. Purtroppo sì. Compare mio. No. Questa è l'incredibile storia di questo gatto, un gatto persiano trovato in strada, adottato da questa coppia di emeriti sconosciuti, che però hanno fatto un meme su internet, e quindi il colonnello Miao era questo gatto dall'aspetto austero che ha ispirato tanti meme, tante immaginette. No, di Grand Piquet. È lui che è morto. Grand Piquet. È quello grigio con... No, un persiano, un gatto persiano, faccio una foto. Cioè. No, è molto complicato. No, no, no, no. Sgomento nel mondo della rete, ma purtroppo è una creatura di sé. Ma io pensavo fosse tipo un qualche con qualche militare cinese. Ma anch'io. Infatti mi dispiace molto. Sui gatti, no, un militare cinese. Ah, beh. Ma che cattiva pubblicità, ma ragazzi. Ce ne sono tanti. Sì, sì, ah? Sì, ora piangiamo davvero, perché è stato iniziato, cioè è stato confermato il super balzello imposto dalla SIAE in tutti i dispositivi che faranno d'archiviazione dati, quindi da hard disk. Sì, con un aumento il sovrapprezzo può oscillare dai 5 ai 40 euro in più rispetto al prezzo del ma l'avevano fatto già 2 anni fa. No, invece adesso è di febbraio 2014, ieri. Un altro aumento. Non ho compreso. Praticamente per qualsiasi oggetto tecnologico che può contenere dati, un archivio informatico, quindi dai hard disk ai lettori MP3 alle pennette USB, ci sarà un sovrapprezzo che va dal 5 ai 40 euro che vanno ai soldi della benemerita SIAE. Meno male che la postale è il mio hard disk. Quindi tu sei esentato. Seriamente vogliono fare. No, l'hanno già fatto. Sì, sì, è già. E quindi va. Meglio, meglio. Anche... Lo rifaranno ancora. Lo rifaranno ancora. Perché si vede che. Perché lo devono. Meglio. Cioè, cosa vuol dire questo? No. Che stanno finendo i soldi perché Creative Commons si sta scattando. Assolutamente sì. Ma poi il problema è che tutto questo è stato fatto anche per essere applicato alle nuove tecnologie, come in particolare gli smartphone, cioè poter attingere anche da questi nuovi gadget tecnologici. Sì, so. È fare schifo. Dillo. Non è abbastanza. E ragazzi... Perché? Chi vuole dire anche tu questo? Perché non si sa, perché no. Per andare a recuperare secondo loro i soldi che perderebbero, perché tu se ti compri un hard disk vuol dire che lo riempi di canzoni, di film, di quant'altro, è coperto da copyright. Tra l'altro se troviamo c'è solo in Italia, sono paranoici. Ci sono in Italia questa cosa, ragazzi. Cioè, infatti questo lo odio da internet e tutti quanti. Cioè, comunque ragazzi, quando la tecnologia ti lascia un po' a piedi, tra virgolette, è successo alla rete informatica del Turkmenistan, che ha subito questo devastante attacco informatico che ha paralizzato l'intera infrastruttura informatica. Pensate, l'intera infrastruttura del Turkmenistan. C'è però un dettaglio. Hanno paralizzato mezzo mondo. Io non sono nemmeno però... fatto come il Molino. C'è però un dettaglio, il fatto che il presidente della specie, il ministro della tecnologia Niyazov si chiama, ha ammesso che l'intera rete informatica del Turkmenistan è basata su dei Commodore 64. È incredibile. Dice di averli acquistati tramite su eBay per $78 l'anno scorso. Che quindi adesso sono crollati così. Ma guarda, sono tu. Riusciti a bucare dei Commodore 64, incredibile. Pazzesco. Cioè, devono essere degli hacker all'avanguardia mondiale. No, per scherzare, con il text basic non si scherza mica. Quindi vai a risparmiare $78 su eBay così, ti fai una rete informatica del turco, però poi... Non c'è mai abbastanza. Guadagnava di più se faceva un museo. Museo dell'informatica. I Commodore. Solo i Commodore. No, ma il guai è che secondo me il tempo di caricare l'antivirus, premuto play, c'è cioè la schermatina di caricamento, ma intanto mi hanno già solato l'intero. Invece un esempio virtuoso di tecnologia moderna viene incredibilmente per le nostre abitudini da Messina, la prima città al mondo a produrre energia dal mare. Grazie a 3 anni di esperimenti, loro sono riusciti, che se ne dica, a produrre l'energia sfruttando la turbina Cobold, cosiddetta, che è installata nello stretto di Messina, e quindi fornirà questo accordo per... Ma sapevo che comunque era una produzione in collaborazione con l'Università di Roma. Sì, visto. E la Mediterranea sta facendo il progetto anche da questa parte, sta facendo una specie di cosa gemella che avrà delle finalità simili. Hai capito, l'ha fatto il Reggio, però l'ho provato prima a Messina, perché se magari esplodeva era Messina. No. Mica scemo. Salutiamo gli amici messinesi, ragazzi. Già violento. Ricordo, non è che altro diciamo che siamo tutti un mettino a meno di ore. Messina. Ma non fate mustacchi, ci seguono sempre. Trasferiti tutti a Geppione. Venite a casa nostra. Vi ospitiamo noi. Ragazzi, bisogna guardare avanti. Proprio oggi, che la cena compie le 30 puntate, sta commemorando in queste ore, diciamo, anche i primi 10 anni di Facebook. Questa piattaforma social network che ha unito tanti depressi, che ha fatto incontrare tante coppie, ha fatto conoscere tanti video pressoché inutili al mondo, però ha fatto anche tante cose perché positive, perché comunque la coppia ha fatto conoscere coppie, è una cosa negativa, no? Molto. dipende dalla... Praticamente gira una serie di applicazione che fa vedere, tipo, in un video gli ultimi 5 anni che vuoi tu fare. Che bello. Facebook ti fa questo regalo. Ti fa vedere gli ultimi 5 anni che hai sprecato su Facebook. I post che mi piace, le foto che hai fatto. Pensavo che ti vedevi tu, ma il tuo computer fa così. Per 5 anni. Video, così. Hai fatto questo per 5 anni. C'era anche il video porno, però almeno... Vabbè, lì... No, panda! Abbiamo detto no la settimana scorsa, è buono. Cattivo pare. Io ho detto di vedere il video di Panda, panda. Ma ragazzi, si va avanti con questa notizia che ancora mi sa che è in fase di ridefinizione. Justin Bieber via dagli States dopo il suo arresto per una nefandezza serata, una nefanda serata a base di droga e non so che cos'altro. Corse di auto. Sul sito della Casa Bianca è arrivata questa petizione che vorrebbe vedere il famoso cantante giovanissimo fuori, bannato dall'America, dagli States. Guarda, perché non lo portano con i tagli? No, infatti, come dici, secondo me surrogati di questo video l'abbiamo comprato. Lui viene in Italia, fa un partito, diventa presidente, non ce lo togliamo più dalle scatole, questo è il problema di questi tempi, sai com'è. Ma magari fanno un nuovo tipo di ministro inutile, come non so, il ministro della commercializzazione della musica. Mettono lui, che tentata. Ministro delle voci brutte. Ma la CIA potrebbe trovare un po'. Il ministro dello baby, baby, baby, oh baby, baby, baby. Baby, oh baby. Angel. Angel. L'altra. Che cantone. Ma come fanno per una... Quando tu stai zitto, per favore, guarda. Perché? Zitto. Senti, quello che dovrebbe stare zitto sei tu. Dovrebbe essere zitto sei tu. Vabbè, state zitti tutti perché andiamo avanti con le notizie. Ascoltare i maiali. Soprattutto il grande mistero a proposito di immigrazione, diciamo fuori le righe, grande mistero di una nave dispersa nell'Atlantico con un carico veramente improbabile. Il carico sono dei ratti cannibali. Questo è Maurizio. Che già dovevamo sparare la settimana scorsa. Quindi questa nave, la nave fantasma che si aggira nell'oceano Atlantico, ha a bordo questi topi ed è una minaccia reale, perché c'è il rischio che comunque possano andare a sbarcare da qualche parte e quindi infettare, tra virgolette. Più che infettare, la prima è dopo i computer, dove era? Era un gioco amante. Beh, se... allora. La seconda è. Perché non fanno prendere la mano del Nobel? E se imparassero a nuotare? Se sviluppassero le branchie. Mentre annega. Mentre annega. Le evoluzioni in un secondo. L'evoluzione è velocissima. Beh, penso che comunque erano già sulla nave quando hanno finito il ciclo, perché l'equipaggio è sparito, non c'era molto sentito di loro. Non è mangiare l'equipaggio. Sono... Ma cannibali perché mangiano le persone. No, che mangiano altri topi. Cannibali si mangiano. Sono cannibali e mangiano altri topi, non persone. Cannibali cosa vuol dire? Beh, che degli animali che degli animali che sono nati e cresciuti in questo mondo, quando scoprono sulla Terra, vanno a cercare le prime fonti di sostentamento che possono trovare. Altri topi. O qualsiasi altra cosa che tutti di carne. Tipo? Noi. Non tutti siamo di carne, quando. Tu sì. Sì, lui è di lasagna. No. Sì. Invece la, la quanto ho capito, quello che aspettano di fare, visto che questa nave è diventata una leggenda nei mari dell'Atlantico, è tanto ad aspettare che i topi si mangino a vicenda. Questa è la, la conclusione definitiva. Poi è tra Caggio e Tau. È là. Là sono forse la cosa migliore che ci potrebbe capitare di queste. Quindi va bene così. Ma ragazzi, il mare riserva tante tante sorprese, anche se si esce per una escursione a caccia di squali per un giorno e si torna dopo circa un anno. È successo a questo tizio, questo Salvador Alvarenga, di 37 anni, che ha fatto la vita del castaway, diciamo, del naufrago per tutto questo tempo, e quindi è tornato alla civiltà. Tra l'altro è tornato con una lattina di Coca-Cola in mano. Evidentemente gli mancavano questi lussi. Ha bevuto sangue di tartarughe, ha mangiato pesce che riusciva a pescare a mani nude, quindi un anno incredibile. Perché sangue di tartaruga? Acqua è... Hai ragione, la trovi, acqua è il mare. Vero? Acqua dove? Scusa, dove è finito? È finito in un'isola grande con questa stanza. Ok, ma ci sarà stato qualcosa facile? No, non c'era manco un anno. E la tartaruga da dove sbucavano? Al mare. Ah, quella marina, ok. No, guarda. Non c'è altro testo. No, erano le tartarughe volanti di Mario Bros. Ma ragazzi. Sopra. Poi da poco io uscito il bonus per volare. La fogliolina. Ah, yeah. Ragazzi, la vita, le stranezze, anche un po' le goliardie del web. Che ha diffuso questa notizia, è incredibile. Ma c'è un'altra notizia di tutt'altra natura, ma molto incredibile, che si intitola, si chiama Neck Nomination. Cioè, nominano Neck? Il Badge, un gioco virale che si sta diffondendo, nel web, ha già fatto 5 vittime, e il gioco consiste nel riprendersi durante una mega bevuta di qualsiasi tipo di alcolico e poi mettersi alla guida di un qualsiasi oggetto che vada dalla motocicletta fino alla macchina, e qua c'è addirittura uno sul surf che fa surf, quindi dice che sta avendo un successo incredibile. Ma roulette, roulette russa no? No, l'ho capito, ammazzarsi e ammazzare qualcun altro in macchina. No, fa più visualizzazioni. Per me fa più visualizzazioni uno con No, ragazzi, no, si chiama selezione naturale. Sono d'accordo. Non mi preoccupate, è tutto a posto. È la natura. Che fa il suo corso. Cioè, io mi chiedi se... Che era? Ti sfidano a bere, va bene, dai, ci può stare. Ma che ti mettono alla guida dopo aver bevuto magari l'ira di Dio? Perché? Ma che te ne frega? Tanto. Sì, ma allora, se tu ti metti la guida in macchina che è ubriaco e invece continuate la macchina con il video che non è ubriaco, le persone che non dovrebbero stare bene cioè che non ha fatto niente. Magari gli fa anche un favore da ammazzarli, magari aveva una vita atroce, insofferente. Ma no. Magari era povero e con i soldi di assicurazione va a sfondare tutta la famiglia per 2 anni. Spanna, sei un egoista di merda. È bello, incredibile. Incredibile, ragazzi. Ah, ma sono quasi di inverso. In amicizia. Fai l'assicurazione. Non dire, poi... No. Non sono ubriaco. Va bene. Ragazzi, ci sono cose che si risolvono in un attimo, come la vita. E ci sono cose che invece hanno bisogno di addirittura 30 anni. Ad esempio, una storia scritta da Akira Toriyama, il fumettista che creò Dragon Ball, questa famosa storia che racconta le avventure di questo ragazzino Goku, ma in tutti questi 30 anni di avventura non si è mai scoperto chi è la madre di Goku, cioè questo personaggio avvolto dal mistero sarà rivelato quanto prima, perché Toriyama vuole comunque sì, in questa nuova serie voglio metterci anche la sorella di Bulma e sono d'accordo. Insieme a un altro personaggio particolare. E la madre di Goku è? Si chiama Gina, la madre di Goku. Basta! Meglio Gina. La sfidenza c'è. Ma ragazzi, per finire, come una volta i tempi come cambiano, una volta si diceva Houston abbiamo un problema, e adesso il motto sarà rivisto in Houston la ciabella è viva. Lo dice Roe Joseph, questo ricercatore della NASA, che denuncia alla NASA una terribile carenza. Era stata riscontrata su Marte dalla sonda spaziale che sta visitando il pianeta rosso, questa ciambella sul suolo marziano, che poi è scomparsa dopo qualche giorno. Joseph denuncia il fatto che la NASA non si sia occupata di questa sparizione. Cioè, una ciambella su Marte. C'era questo oggetto che effettivamente richiama la forma di una ciambella, che era sul suolo lunare e poi è scomparso. Tra l'altro, questo è il martiano. Solo lunare o marziano? Marziano. Vabbè, ma Marte è un pianeta con molti cicloni. Cioè, roba che appaiono 2 secondi e più spedito. Ma la cosa incredibile è che proprio tutto il resto attorno a questa ciambella è rimasto intatto. Cioè, tutte queste pietruzze. Si mantenevano qua. La ciambella è svanita e Joseph rimpiange questa opportunità di venire un attimo a capire cos'era quella pietra, quell'oggetto, quella ciambella. Penso proprio che noi abbiamo così tanta paura dei marziani da anni, e poi in realtà se vengono qua sulla Terra ci mangiano. Forse le abbiamo mangiati per tutti questi anni. Si mangiano le ciambelle. Resteremo con questo grande interrogativo. se vanno così, sì, direi a una lira. Ragazzi, una piccola pausa musicale. C'è una chioccia di bacca.it per contattare adesso la trasmissione. Fatelo, a tra poco. Ragazzi, era la cena dei regini e questa settimana ce la siamo cavata più che bene. Ti aspettiamo settimana prossima. Quasi tutti. Abbiamo distrutto un ragazzo con la flaga tipica. Però dai, siamo anche questo, voglio dire, è la cena dei regini. E allora su www.ultipac.it trovate tutto per contattarci, per seguire le puntate, fatelo. Alla vostra e alla nostra, la cena dei regini, il back ai ragazzi della cena, un applausino. La settimana prossima, ciao. Ciao.